Stefano Folli. Costretto dalle circostanze nel tentativo di contare di più a Bruxelles, Grillo cerca con l'inglese Farage un accordo destinato, parole del nuovo amico, a creare molti danni all'Europa. Per la prima volta, insomma, il capo dei 5 Stelle è indotto a fare politica, adattandosi alle situazioni anziché limitarsi a lanciare le sue celebri invettive. Ma le conseguenze non mancheranno. Primo, i 5 Stelle dovranno schierarsi contro l'Europa e la moneta unica, visto che su questo il loro alleato, leader dell'estrema destra inglese, non scherza. È un cambiamento di prospettiva non da poco, visto che Grillo sull'euro si era sempre barcamenato. Secondo, la linea anti-immigrati e anti-stranieri degli inglesi non è quella dei Grillini in Italia, dove la sinistra del movimento aveva imposto a Grillo la solidarietà verso gli immigrati in arrivo a Lampedusa. I 5 Stelle sono un agglomerato di varie tendenze, da sinistra e da destra, tenuti insieme dal carisma del leader. Fare politica invece vuol dire scegliere una linea, e questo tende a creare divisioni, spaccature. Per gestirle non basterà fare ricorso al mitico web.